cazzo di amici stretti. Li faccio o non li faccio? Perché ancora non li ho fatti, tutti li hanno fatti io. E non ho fatto niente. Comunque si dice che la voce stava anche migliorando, quindi comunque se ci vediamo, non lo so.